L'amante della zia Teresa era un uomo dai modi soavi e degli occhi di ghiaccio. Si serviva degli uni o degli altri a seconda della situazione. Era rassicurante come il mattino, scatenato come il mare di notte. Aveva un sorriso candido e accattivante che non si accordava quasi mai con i suoi occhi. Gli occhi li fissava altrove perché stavano pensando ad altro. Solo di tanto in tanto si univano allo splendore del viso e allora era irresistibile. Almeno così credeva la zia Teresa, che collezionava con avarizia ognuna di queste magnifiche alleanze, ogni parvenza di vicinanza, per poi contemplarle come grandi tesori. I fragili istanti in cui aveva invocato il suo nome, l'accenno a un eventuale figlio insieme, la disperazione con cui aveva voluto toccarla una notte di pioggia, l'ansia con cui l'aveva baciata al ritorno da un viaggio. Per 100 notti, tentò di decifrarlo, pareva inafferrabile. Chissà. Magari qualche volta era stato interamente suo senza che lei se ne rendesse conto. Avrebbe ringraziato il Dio se lo avesse saputo anche solo a 80 anni, quando ormai delirava cercando chiavi e cravatte per tutta la casa. Si incontravano in un luogo nascosto, dove a quell'epoca terminava la città. La zia Teresa Gaudin Lerdo era una delle 5 donne di Puebla che aveva la patente e possedevano un'automobile. Così, quando attraversava il ponte della strada per Cholula, dentro di sé chiedeva perdono alle altre 4 per aver rischiato il buon nome di tutte e 5. Il suo amante si chiamava Ignacio Lagos e aveva una Packard con relativo autista, nella quale viaggiava studiando le sue carte. Per tutta la vita, zia Teresa non poté dimenticare il tremore con cui scendeva dalla sua Chrysler azzurra per entrare nella loro stanza del nuovo Resurrection. Era fifona da buona Gaudin e ardita da buona Lerdo. Si sarebbe incontrata con l'uomo delle sue ossessioni, morta di paura ma ostentando sangue freddo. Quando la porta si apriva e lui era lì, disposto a concederle lo sguardo e le labbra al tempo stesso, tutti i pericoli svanivano e il mondo era un puntino lontano, finché entrambi non avessero terminato di recriminare le reciproche assenze, la sfiducia, l'odio, quell'amore pietroso di 7 cotte. Poi, quando lei cominciava appena a rifugiarsi nell'abbandono, lui decideva di scappare perché si era fatto tardi. Bisognava fare i conti con l'eterno nemico insediato nella testa degli altri, il tempo. Teresa però rimaneva a letto, mentre lui, in qualsiasi stagione, si faceva un bagno che la faceva sentire marcia dentro. Quando ricompariva brillante e profumato, la zia Teresa saltava dal letto per raccogliere i vestiti che aveva sparso per tutta la stanza e si vestiva in fretta, sentendo su di sé lo sguardo nuovamente strano di quel signore. Poi si trattava di uscire in strada, fingendo di non essersi mai visti. Lui teneva le chiavi della camera, le girava 7 volte nella serratura e lasciava che lei uscisse con i suoi passi lenti, che in quei momenti lo esasperavano. 2 minuti più tardi usciva anche lui, richiudeva la porta e si infilava nella sua automobile con la velocità di un fuggiasco. Una sera persero le chiavi. «Ce l'hai tu?» disse lui, vedendo quelle che cullava tra le mani. «Queste sono le chiavi della mia macchina», gli spiegò Teresa facendole dondolare davanti agli occhi. Era così bello Ignacio, mentre giocherellava con la cravatta fra le mani, con la sua aria di efficienza inceppata, che la zia Teresa avrebbe ricominciato tutto da capo. «Dove sono allora?» «Tienimi questa», disse Ignacio, mettendo sulle spalle della zia Teresa la cravatta che gli impacciava le mani. Era una cravatta di seta azzurra che lei sentì intorno al collo come un abbraccio in mezzo alla strada. Con le mani libere, Ignacio frugò frettolosamente nelle tasche dei pantaloni e fra le lenzuola disfatte. Trovò le chiavi che aveva buttato sul letto entrando, quando per lui non esisteva altro futuro che l'ardente rifugio di Teresa. La fece uscire. La sua auto accorse docile come un cavallo a disposizione del padrone. Con la mano fece un silenzioso cenno di saluto e si tenne a distanza mentre la zia raggiungeva la sua Chrysler, camminando nell'oscurità con il terrore di sempre. Neppure il luminoso ricordo del cielo mattutino, qui si appigliava in quei momenti, riusciva a scacciare la paura. Tremava. La festa era finita e lei non osava cantarellare una canzone. La sua auto era ancora lontana quando udì una voce dietro di sé, una voce metallica che la chiamava. Finse di non sentire. Si pentì di essere lì con ogni singola particella del suo corpo, ancora febbrile. Potrebbe uccidermi, pensò. Questo mi capita per essere tanto stupida. Fu assalita dalla visione del suo corpo steso in mezzo alla strada, inerte, nudo, freddo, Non aveva mai avuto tanto freddo come quando immaginò quel freddo. La sauta era a tre passi, eterni, e la voce seguitava a chiamarla. Sentì due mani che le toccavano le spalle, un conato d'orrore le salì in gola. «La mia cravatta, cara!» disse la voce di Ignacio alle sue spalle. «Ti stai portando via la mia cravatta!» Afferrò la cravatta con noncuranza e la zia Teresa la sentì scorrere come una frusta intorno al collo. Quindi, senza aggiungere altro né rendersi conto di nulla, Ignacio Lago stornò all'auto che lo attendeva e se ne andò. La zia Teresa arrivò alla Chrysler battendo i denti, come se fosse nuda. Tornò verso la città, attraversò il ponte e entrò in casa. Quella notte non ci fu solitudine più grande della sua. Non rivide mai più Ignacio Lagos. Molti anni dopo, quando il senno abbandonò la sua testa inquieta e invecchiata, cominciò a sognare il quartiere Resurrezione e gli occhi e la bocca inclemente di quell'amore insensibile. Si mise allora a cercare chiavi fra le lenzuola di tutta la casa e non c'era armadio che le sue mani disperate non frugassero in cerca di una cravatta. Le sue figlie decisero di metterle a portata di mano mazzi di chiavi e vecchie cravatte. E che andava a farle visita sapeva che non poteva portare il regalo più gradito di un portachiavi e una cravatta di seta chiara. Adesso sì, caro signore, diceva la zia vecchia Teresa, vaneggiando con le sue cose in mano. Adesso sì, che possiamo andarcene insieme. Alla zia Mariana riusciva difficile capire quel che le combinava la vita. E dicendo la vita intendeva l'insieme di fatti casuali che si erano man mano accumulati per poi abbattersi di colpo su di lei, sprofondandola nella prostrazione con cui doveva lottare ogni mattina. Per tutti, compresa sua madre, quasi tutte le sue amiche, tutte le amiche di sua madre, per non parlare di sua suocera, le sue cognate, i soci del Rotary Club, Monsignor Figueroa, perfino il sindaco. Era una donna fortunata. Aveva sposato un uomo di buona famiglia, impegnato per il benessere della comunità, promotore del 90% dei piani di modernizzazione delle attività di solidarietà sociale su cui contava la società poblana degli anni 40. Era la celebre moglie di un uomo celebre, la sorridente compagna di un grande, la più amata e rispettata fra tutte le frequentatrici della messa domenicale. Inoltre, suo marito era bello come Massimiliano d'Asburgo, elegante come il principe Filippo, generoso come San Francesco e saggio come il padre provinciale dei gesuiti. Come se non bastasse, era ricco, come i proprietari terrieri di una volta, ed esperto investitore di capitali, come i libanesi di oggi. La zia Mariana era nella situazione ideale per vivere felice e contenta per il resto dei suoi giorni. E così sarebbe stato, lo sapeva bene, se non le fosse capitata la disgrazia di intravedere la felicità. Soltanto a lei sarebbe potuta venire in mente una sciocchezza simile. Si era proposta di vivere in pace, perché farsi rovinare la vita dalla guerra? Non si sarebbe mai pentita abbastanza, come se fosse possibile pentirsi di ciò che non si sceglie. Perché la bufera le era penetrata in corpo fino all'osso, come si spargono per tutta la casa gli odori che vengono dalla cucina. Come l'improvvisa fitta annuncia un mal di denti duraturo, e si innamorò, si innamorò, si innamorò. Dalla sera alla mattina perse la soave tranquillità con cui si alzava per vestire i bambini e lasciarsi svestire da suo marito. Perse la lenta lussuria con cui beveva la sua spremuta d'arancia e il piacere di divertirsi a studiare il menù del pranzo per mezz'ora. Perse la pazienza con cui dava retta alla sua impertinente cognata, la voglia di passare un pomeriggio intero a preparare torte, l'abilità necessaria per immergersi sorridente nella tediosa monotonia delle cene familiari. Perse la pace che aveva cullato il suo grembo in attesa e il sonno caldo e generoso cui abbandonava il corpo la notte. Perse la voce discreta e i silenzi estasiati con cui circondava le opinioni e i progetti di suo marito. In cambio, acquisì una terribile abilità nel dimenticare tutto, dalle chiavi ai nomi. Diventò distratta come un'alunna sorda e condiscendente per indifferenza. Aveva una passione sola, proprio lei, che si credeva fatta per le cause minori, che era convinta di non dover soddisfare che i pensieri altrui, che si beava in silenzio delle piante e dei pesci rossi, dei calzini perfettamente stirati e dei cassetti ordinati. Di colpo viveva nel caos che deriva dall'eccitazione permanente, nella logorrea che copre un'enorme paura, passando dall'euforia alla disperazione con le ossessioni febbrili di chi è posseduto da un'unica causa. Si domandava in continuazione come avesse potuto succederle una cosa simile. Non si capacitava che il recente e inaspettato incontro con il corpo di un uomo l'avesse fatta piombare in quello stato confusionale. Lo odio, diceva, e dopo averlo detto, si dedicava alla cura maniacale delle unghie e dei capelli, agli esercizi per snellire la vita e alla depilazione delle gambe, strappandosi i peli uno ad uno con le pinzette per le sopracciglia. Si comprò biancheria intima della seta più lucente e stupì suo marito con una collezione di mutandine brillanti. Lei, che aveva passato la vita a parlare delle virtù del cotone. Chi lo avrebbe mai detto? Mormorava mentre passeggiava per il giardino, cercava di annaffiare le piante nel corridoio. Per la prima volta in vita sua aveva finito i soldi che suo marito le metteva ogni mese nella cassaforte del suo guardaroba. Si era comprata 3 vestiti in una sola settimana, quando di solito ne comprava uno al mese per evitare ostentazioni, ed era andata dal gioielliere per quella lunga catena d'oro ritorta, il cui prezzo le era sembrato vergognoso. Sono pazza, si diceva, servendosi della qualifica che aveva sempre usato per definire chi non era d'accordo con lei. Infatti, questa volta era lei a non essere d'accordo con se stessa. A chi poteva saltare in mente di innamorarsi? Che cosa insensata! Eppure, contro ogni buon senso, si lasciava precipitare nel bisogno di qualcuno. Perché aveva un autentico bisogno di quel signore che, al contrario di suo marito, parlava molto poco, non dava spiegazioni per i suoi silenzi e aveva mani insostituibili. Solo per quelle mani valeva la pena rischiare ogni giorno di morire. Perché sarebbe morta se si fosse svelata la sua follia. Anche se suo marito fosse stato buono con lei, come lo era con tutti, nessuno l'avrebbe salvata dal linciaggio collettivo. Tutti gli adoratori del suo adorabile marito l'avrebbero bruciata viva sul sagrato della cattedrale o sulla piazza principale. Quando giungeva a tale conclusione, fissava lo sguardo nel vuoto e poco a poco sentiva come la colpa abbandonava il suo corpo, cedendo il posto a una paura enorme. A volte passava ore intere a immaginare il rogo che l'avrebbe bruciata. Sentiva persino le voci delle sue amiche che la chiamavano puttana, ingrata. Poi, come se avesse avuto una premonizione celeste, un sorriso si faceva strada sul suo volto inondato dalle lacrime e si riempiva le braccia di braccialetti e il collo di profumi, prima di andare a nascondersi nella felicità che ancora non accennava a finire. Era un uomo dolce. E silenzioso, l'amante della zia Mariana. L'amava senza fretta e senza ordini, come se fossero uguali. Poi le chiedeva: raccontami qualcosa. Allora la zia Mariana gli parlava dell'influenza dei bambini, dei menù, delle sue dimenticanze e con assoluta precisione di tutte le cose che le erano successe dal loro ultimo incontro. Lo faceva ridere finché tutto il suo corpo recuperava l'allegria dei 20 anni. Per forza poi sogno che mi bruciano in piazza. Me lo devo meritare, mormorava fra sé e sé la zia Mariana, scrollandosi di dosso la paglia di una stalla di chipilo. Il frigorifero di casa sua era sempre ben fornito dei formaggi che andava a comprare in quel villaggio pieno di mosche e contadini biondi, discendenti dei primi italiani che erano venuti a seminare qualcosa in Messico. A volte pensava che suo nonno avrebbe approvato la sua inclinazione per un uomo che, come lui, poteva essere nato sulle montagne del Piemonte. Faceva la strada del ritorno quando ancora era chiaro nella sua auto rossa senza l'autista. Un pomeriggio, mentre tornava a casa sua, fu sorpassata dalla Mercedes-Benz di suo marito. Era l'unica Mercedes che ci fosse a Puebla e lei era sicura di aver visto due teste nell'abitacolo. Quando però la trovò ferma davanti a sé, vide soltanto la rispettabile testa di suo marito che tornava dal ranch di Matamoros. Che colore devo avere la coscienza? Disse tra sé e sé la zia Mariana e seguì l'auto di suo marito lungo la strada. Fecero tutto il viaggio una dietro l'altra, fino all'ingresso in città, dove uno girò a destra e l'altra a sinistra, salutandosi con la mano dal finestrino nell'intesa che alle 7 di sera ognuno dei due aveva ancora le sue faccende da sbrigare. La zia Mariana pensò che i suoi figli tra poco avrebbero voluto mangiare, che lei non li lasciava mai soli a quell'ora. Tuttavia, pensando a quel suo marito tanto lavoratore, capace di passare il giorno intero da solo tra i campi di meloni e pomodori, che visitava il giovedì andando fino a Matamoros per poi tornare in negozio e al Rotary Club senza concedersi la minima tregua, la colpa la salì all'improvviso. Decise di fare marcia indietro e raggiungerlo immediatamente per confessargli la malvagità che si era impossessata del suo cuore. Detto, fatto. In 2 minuti raggiunse la lenta Mercedes dove troneggiava la testa elegante di suo marito. Le tremavano le mani e aveva lacrime agli occhi. Si avvicinò al lato di suo marito, agitando la mano per farsi notare, convinta che fosse il suo ultimo gesto. Con tutta se stessa implorava perdono, ancora prima di aprire bocca. Allora vide la bella testa di una donna coricata su sedile molto vicino alle gambe di suo marito e per la prima volta da molto tempo provò sollievo, trasformò l'angoscia in sorpresa, quindi la sorpresa in pace. Per anni tutta la città parlò della dolcezza con cui la zia Mariana aveva sopportato l'avventura di suo marito con Amelia Berumen. Ciò che nessuno riuscì a capire fu come mai neppure in quei mesi dolorosi interruppe la sua assurda abitudine di andare fino a Cipilo per comprare il formaggio. La luna era al primo quarto, la notte che scardinò per sempre gli ordinati sentimenti della zia Ines Aguirre. Una luna intrigante, ardente, che si faceva beffe di lei ed era tanto nero il cielo intorno a lei che c'è da chiedersi perché Ines non abbia pensato di sfuggire a quella maglia. Forse anche senza la luna, anche se il cielo avesse finto trasparenza, tutto sarebbe stato uguale. Ma la zia Ines voleva dividere con la luna la responsabilità della sua rovina. Soltanto sotto quella luna era potuta cominciare la pena che le attanagliava il corpo. Un'infelicità che, come quasi sempre accade, l'aveva sorpresa, spacciandosi per l'origine stessa della felicità. Perché la notte in questione, sotto la luna, quell'uomo le diede un bacio sulla nuca come chi beve un sorso d'acqua. E fu una notte tanto lontana dal dolore che nessuno avrebbe potuto immaginarla come l'inizio della benché minima disgrazia. Era appena arrivata la luce elettrica e le case ai piedi della montagna parevano stelle. Su qualcuno doveva pure vendicarsi, la luna, del dolore che le aveva causato quella luce mercenaria e bugiarda che illuminava le case e proteggeva le strade, e dell'ingratitudine di una città intera che attendeva tranquillamente la notte, senza cercare l'ausilio del suo fulgore. A qualcosa doveva pur servire la luna, qualcuno doveva ricordare la sua luce al calare della sera. Questo qualcuno fu Ines Aguirre. La luna la spinse in un abbraccio che sarebbe svanito presto, ma l'avrebbe circondata per sempre. Il giorno seguente la zia Ines non ricordò preghiera, tantomeno ordini, ma c'era una luce nei suoi occhi che gettava ombra su tutta la sua esistenza. Non poteva scordare l'alito tiepido sulle sue spalle, né liberare il suo cuore dalla pena che l'aveva legata alla sacra volontà della luna. Diventò smemorata e distratta, chiedeva aiuto per trovare la matita che aveva in mano, gli occhiali che aveva sul naso, i fiori che aveva appena recisi. Dal modo in cui camminava si sarebbe detto che non andasse da nessuna parte, perché quasi sempre dopo il primo passo scordava dove era diretta. Confondeva la destra con la sinistra e non ricordava mai un cognome. Finì per chiamare i suoi zii con i nomi dei suoi fratelli e le sue sorelle con i nomi delle sue amiche. Ogni mattina doveva ricordare in che cassetto teneva la biancheria intima, come si chiamavano i frutti rotondi che spremeva per colazione. Non sapeva mai che ora fosse e più di ogni volta rischiò di essere travolta da un'automobile. Un pomeriggio faceva il più delizioso dei dolci al cioccolato e la settimana dopo non trovava più la ricetta, né sapeva di che dolce le stessero parlando. Andava al mercato e tornava senza aver comprato le cipolle e perfino il Padre Nostro non ne usciva più automaticamente di bocca. A volte rimaneva a fissare a una fioriera, una sedia, una forchetta, un pettine, un anello e chiedeva candidamente: «E questo a cosa serve?» Altre volte scriveva in un quaderno qualunque ogni sorta di storie che poi non poteva leggere perché, messo il punto finale, dimenticava l'alfabeto. In uno di questi quaderni scrisse: l'ultima volta che fu in grado di farlo. Ogni luna è diversa dalle altre. Ogni luna ha la propria storia. Beati quelli che possono dimenticare la loro luna migliore. C'è gente contro cui la vita si accanisce, gente che non ha periodi di sfortuna, bensì una serie continua di tormente. Quasi sempre queste persone diventano lamentose. Quando incontrano qualcuno si mettono a raccontare le proprie disgrazie, finché si assomma alle loro disgrazie il fatto che nessuno desidera incontrarle. Questo non accadde mai alla zia Ofelia, perché nonostante la vita l'avesse assediata varie volte con la sua arbitrarietà e i suoi infortuni, e non assillò mai nessuno con la storia dei suoi dispiaceri. Dicono che fossero molti, ma non ne conosce neppure il numero esatto, né tantomeno le cause, perché lei si incaricò di cancellarli ogni mattina dal ricordo altrui. Era una donna dalle braccia forti e dall'espressione allegra, aveva una risata cristallina e contagiosa che sapeva usare al momento opportuno. Nessuno invece la vide mai piangere. A volte le dolevano l'aria e il suolo che calpestava, il sole dell'alba, le orbite degli occhi, e dolevano come una vertigine il ricordo e come la peggior minaccia il futuro. Si svegliava nel cuore della notte con la certezza che si sarebbe spezzata in due, sicura che il dolore se la sarebbe mangiata in un sol boccone. Ma appena faceva giorno, si alzava dal letto, si metteva sul volto il sorriso, si aggiustava lo splendore sulle ciglia e usciva incontro al prossimo come se i dispiaceri la facessero galleggiare nell'aria. Nessuno osò mai compatirla. Era tanto stravagante la sua forza che la gente cominciò a cercarla per chiederle aiuto. Qual era il suo segreto? Chi proteggeva le sue afflizioni? Dove trovava la capacità di resistere davanti alle peggiori disgrazie. Un giorno svelò il suo segreto a una giovane donna, il cui dolore sembrava non avere rimedio. Ci sono molti modi di suddividere gli esseri umani, le disse. Io li divido tra quelli con le rughe all'insù e quelli con le rughe all'ingiù. E io voglio far parte della prima categoria. Voglio che la mia faccia da vecchia non sia triste. Voglio avere le rughe che vengono dal riso e portarle con me all'altro mondo. Chissà che cosa dovremmo affrontare laggiù.